Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. Ore 12.30, anche oggi puntualissimi, iniziamo questa nuova puntata di Minerva e anche oggi qui presenti per darvi il buongiorno, quindi un grandissimo buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM, benvenuti e benvenute in questa nuova puntata di Minerva, il format di approfondimenti culturali che va in onda dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno e mezza fino alle 13, per questa mezz'oretta insieme a me, Rachele Coppola Paroni alla voce e alla regia, appunto per chiacchierare un pochino insieme, per parlare ovviamente come sempre di cultura, quindi nuovi approfondimenti culturali, nuove interviste ogni giorno e non mancherà di certo lo spazio per parlare anche della nostra agenda degli appuntamenti. Ormai sapete che in questa mezz'ora di diretta insieme ci concentriamo appunto sulla cultura, come si muove a Bologna la musica, il teatro, il cinema, l'arte, i libri, le presentazioni, quindi tutto ciò che ha a fare con la cultura e anche con la nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi che ci saranno appunto oggi mercoledì 20 gennaio. Ma prima di anticiparvi gli argomenti di cui andremo a parlare questa mezz'oretta di diretta insieme, volevo come sempre ricordarvi i nostri contatti e partiamo proprio dal numero di telefono che da anni è sempre quello, ma io ve lo ridico ogni giorno, il numero è 333 180 9494. Ve lo ripeto anche perché mi stavo strozzando nel dirlo, 333 180 9494. Potete mandarci un classico sms oppure anche un messaggino su WhatsApp o su Telegram se preferite. Questione invece sito, il nostro sito è www.radiocittafujiko.it, purtroppo è da qualche giorno che è offline, totalmente fuori uso, quindi non riusciamo a pubblicare lì i nostri articoli, i nostri approfondimenti, le nostre interviste, ma nel frattempo rimaniamo comunque più o meno attivi sui canali social, quindi Instagram, Facebook, il canale YouTube e anche Twitter. Seguiteci lì perché cerchiamo, oltre che nella diretta, di riportarvi appunto, se vi siete persi qualche cosa delle ore di diretta, di riportarvi i nostri approfondimenti e le nostre interviste di tutte quante le redazioni, quindi sia la culturale, ma ovviamente si parla anche tanto di attualità e politica soprattutto in questo periodo, e anche ovviamente la redazione musicale immancabile. Ma siamo arrivati al momento delle anticipazioni. Questo menù, diciamo, chiamiamolo così, della puntata di oggi di Minerva di mercoledì 20 gennaio avrà come protagonista un'altra volta la Sicilia. Infatti ieri abbiamo iniziato questo percorso alla scoperta della casa editrice Mesogea, casa editrice appunto siciliana, nata a Messina nel 1999. Stiamo scoprendo questa casa editrice che io già conoscevo, è una casa editrice indipendente appunto totalmente italiana, siciliana, che pubblica storie che raccontano, che parlano di Mediterraneo. Io ho avuto il piacere di intervistare una delle editor di Mesogea, che è Claudia Pastura. Lei mi ha raccontato le ultime uscite appunto all'interno del loro catalogo. Oggi nello specifico parleremo di Quel tram di Istanbul di Peyami Safa e Una città in pugno di Antonio Fisichella, due libri appunto usciti recentemente all'interno del catalogo di Mesogea che Claudia Pastura ci ha raccontato da più vicino ancora meglio. E oltre che di Mesogea, come vi anticipavo prima, andremo a parlare anche della nostra agenda degli appuntamenti nell'ultima parte della mezz'ora di Minerva. Anche oggi tanti appuntamenti interessanti, sempre che riguardano la cultura e la nostra città in qualche modo. Ma di Sicilia non si parlerà solo per quanto riguarda la casa editrice Mesogea e i suoi libri, ma anche per la musica. Infatti dalla puntata di ieri, ma anche appunto questa di oggi di mercoledì 20 gennaio, mi piaceva unire il fatto che appunto Mesogea sia una casa editrice siciliana con della musica siciliana doc, e avendo io un coinquilino made in Sicilia, anche lui siciliano doc di Siracusa, gli ho chiesto ieri: ma mi sapresti consigliare consigliare qualche cantante doc siciliano da far ascoltare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e lui mi ha consigliato questo giovane ragazzo che si chiama Marco Castello, cantautore e polistrumentista siracusano, che è il nuovo talento di 42 Records, una casa discografica indipendente appunto italiana. Ha pubblicato a settembre il suo terzo brano, che si intitola Cicciona, un titolo molto evocativo e molto forte, che però in realtà non c'entra praticamente nulla con l'essenza del brano. Sicuramente non si fa body shaming, ecco, ma racconta una storia anche d'amore abbastanza complessa. Questo brano arriva dopo la pubblicazione di altri singoli, tra cui Torpi. Lo ascolteremo poi, scopriremo che cosa vuol dire Torpi in dialetto siracusano, che sicuramente starò pronunciando male, quindi siracusani, siciliani all'ascolto, ditemi pure al 333 180 9494 come si pronuncia esattamente questa parola. Comunque, tornando a Marco Castello, oltre al suo progetto da solista, suona anche la chitarra con Erland Oik dei Kings of Convenience all'interno del suo progetto La Comitiva, quindi veramente un cantautore e polistrumentista a tutto tondo, che ci andiamo adesso ascoltare in una live session, quindi non diciamo nel brano registrato in studio, perché non sono riuscita a trovarlo, ma visto che anche insomma chi c'era prima in diretta parlava di live session, mi sembrava comunque carino farvelo ascoltare. Questo è Cicciona di Marco Castello su Radio Città Fujiko. Mollate tutto che ho sentito un rumore, entra qualcuno, nascondetevi bene, tirate sul lenzuolo, fingete di dormire. Che bello che mi sei venuto a trovare, com'è romantico il pronto soccorso, non ti preoccupare, non ho niente di grave. Dice che hai detto qualcosa di sbagliato e che non potevi dire, che comunque non è certo questo il modo di voltarsi e di parlare. Si incazzerà e non ti dirà perché. Quando finisce sto film non mi lamento, no, non voglio obiettare, era così per sapere. Ha una vita che ti mangiava con gli occhi. Non mi lamento, non voglio litigare, era per farti capire che puoi buttarti senza avere paura, che puoi fregartene di sembrare scema, di fare l'orgogliosa, che puoi lasciarti andare. Che bello quando c'è la spesa da fare, domani cuciniamo cose ciccione, ma non mi incolpare, mangiare come scopare. Dice che ha fatto un sogno strano e te lo vuole raccontare, per sapere se è normale sognare queste cose, capire che ne pensi e sentirti dire fatti curare. E non è vero che ti tratto male, si fa l'offerta per sapere. Ha una vita che ti mangiava con gli occhi. Non mi lamento, non voglio litigare, era per farti capire che puoi buttarti senza avere paura, che puoi fregartene di sembrare scema, che puoi buttarti senza avere paura, che puoi fregartene di sembrare scema. Hanno rapita in Brasile, non mi lamento, non voglio litigare. E questa era la versione unplugged o live session, insomma come preferite chiamarla, di Marco Castello e la sua cicciona. Ci tengo ancora una volta a precisare, insomma, che il titolo di questo brano è assolutamente provocatorio, una provocazione, è un modo per rivendicarsi, diciamo, quella voglia di godersi di tanti piccoli piaceri che si possono vivere ognuno nella propria vita. E Marco Castello, appunto, in un'intervista dice lui stesso: sto provando a fare questo parallelismo tra musica e cibo. A me piace molto cucinare e soprattutto mangiare, io sono il primo dei ciccioni, tra virgolette, e l'ho voluto dire in questa maniera. Essere deboli di gola è un portale per godersi la vita, e io sono assolutamente d'accordo con lui, e quindi mi sembra carino, insomma, questo parallelismo tra musica e cibo. E da Marco Castello, cantautore siracusano doc, rimaniamo in Sicilia per parlare appunto di Mesogea, questa casa editrice indipendente siciliana nata a Messina tra Scilla e Cariddi nel 1999, che racconta le storie del Mediterraneo. Il Mediterraneo tra mare e mito, ponte e frattura, città sacre e infernali di crudeltà. È lo spazio proprio del viaggio editoriale che Mesogea ha intrapreso nel 1999 per conoscere e dar voce alle molteplici identità di un arcipelago di popoli, di culture, di storie spesso reciprocamente ignorati e rimossi. E vi ho già parlato ieri di Mesogea, che ci ha presentato insieme a Claudia Pastura una dei suoi editor le ultime uscite in libreria nel loro catalogo. E oggi nello specifico parleremo di Quel tram di Istanbul di Peyami Safa e di Una città in pugno di Antonio Fisichella. Il primo libro tratta di una metafora, il tram diventa una vera e propria metafora dell'andirivieni della protagonista e del paese in cui vive, tra ribellione e obbedienza. Mentre Una città in pugno di Antonio Fisichella, con il rigore dell'inchiesta e la fluidità del racconto, appunto questo libro offre delle risposte lucide, documentate e appassionate a tante domande che appunto l'autore si pone, come ad esempio: chi è Mario Ciancio, una sorta di re Mida guidato da uno straordinario fiuto per gli affari, o il baricentro di un blocco di potere fondato sulla rendita, la speculazione edilizia aperta alla partecipazione di Cosa Nostra? Quindi, insomma, un libro piuttosto importante. Di tutto questo ci ha parlato l'editor Claudia Pastura all'interno dell'intervista che le ho realizzato e che andiamo a sentire proprio ora. Sempre nel vostro viaggio, diciamo, all'interno del Mediterraneo, rientra anche un'altra uscita recente nel vostro catalogo, che è Quel tram di Istanbul. Allora, Quel tram di Istanbul, infatti, anche qui il movimento delle lingue a questo punto è più nel senso proprio della traduzione, perché è un testo, un romanzo di Peyami Safa, che viene tradotto dal turco ed è stato tradotto da Massimiliano Calbia, e è una delle tante opere che noi abbiamo tradotto dalla lingua turca. E anche qui il tema del viaggio, che è quello che abbiamo visto nel libro per ragazzi Il treno, che è quello che vediamo in forma diversa in Backway e nei fumetti di Backway, qui è un viaggio dentro se stessi e al contempo dentro un'esperienza storica. Peyami Safa è uno dei padri, diciamo, della letteratura turca contemporanea, intendendo per contemporanea l'arco di tempo che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Sessanta. È uno degli scrittori più riconosciuti come classici della letteratura turca, e la vicenda che racconta è straordinariamente contemporanea al nostro tempo, perché è la storia di un dissidio interiore, quello della protagonista di cui si parla, che vive sospesa, passando da un quartiere all'altro di Istanbul, dal quartiere della tradizione a quello della modernità, quindi percorrendo questo tratto di tram. In un certo senso, simbolicamente, lei ci racconta il dramma interiore di chi vive sospesa in un passaggio di tempo tra la tradizione e la modernità, attraversando di entrambi le contraddizioni, in particolare poi attraversandole come donna, per cui è insieme il racconto di un travaglio interiore e di un travaglio storico. il percorso del tram a questo punto diventa la metafora dell'andirivieni della protagonista tra la ribellione e l'obbedienza, tra lo smarrimento e l'esaltazione, tra il rifiuto e l'affermazione, tra in un certo senso l'autocensura e la tensione alla liberazione. Se la guardiamo in particolare dal punto di vista delle donne, e non è un particolare indifferente, la storia che racconta quel tram di Istanbul è una storia che, al di là delle connotazioni storiche del tempo, appartiene a tutte quante noi e a tutti quanti noi. Concludiamo, sicuramente non per importanza, ecco, comunque concludiamo con un'uscita italiana di Antonio Fisichella e con Una città in pugno. Cosa ci puoi raccontare di questo libro? Allora, il libro di Antonio Fisichella è una straordinaria testimonianza di come si possa coniugare l'abilità narrativa, la capacità di raccontare, e però non di raccontare soltanto attenendosi alle proprie ispirazioni fantastiche, ma al contrario di raccontare a partire dai dati crudi e anche crudeli della realtà. Una città in pugno, la città in questione è Catania, ma potrebbe essere l'Italia intera da questo punto di vista, e la ricostruzione delle vicende tormentose della Catania al tempo di Mario Ciancio, industriale, proprietario di giornali, invischiato in quel nodo di informazioni, affari, politica e mafia che non toccano soltanto questa o quella città, ma che oggi sono il tema che attraversa e che taglia, se vogliamo, trasversalmente la storia italiana, la politica italiana, l'economia italiana. Il lavoro che fa Fisichella è straordinario proprio perché la fonte e le fonti del suo racconto sono i documenti, quindi lo sguardo sulla realtà, la ricostruzione di tutto quello che è accaduto nell'arco di tempo che va dagli anni 60 fino ai nostri giorni, è un percorso narrativo che, invece che spingere, come spesso si fa quando si parla soprattutto di città meridionali, nella direzione di una sorta di abbandono di ogni forma di resistenza, di ogni forma di lotta, o di ogni forma di sviluppo della critica, invece ha un effetto straordinariamente entusiasmante, proprio perché dimostra come, sì, se è vero che la durezza degli episodi che si sono consumati, delle vicende che hanno travagliato le nostre città e in particolare la città di Catania, il nodo dell'informazione, il nodo del rapporto tra politica, affari e mafia sia assolutamente stretto, però esiste la possibilità di guardare dentro questo gorgo, esiste la possibilità di avere la forza e il coraggio di analizzare quello che accade, e sulla base di questo, come dimostrano le tante esperienze di tante associazioni di base che sono riuscite a far luce su fenomeni che sembravano assolutamente oscuri, riconsegnano il senso di un agire civico e solidale che è fondamentale per poter comunque andare avanti, e non andare avanti per inerzia, ma andare avanti per scelta. Certo, assolutamente. Io Caterina la ringrazio per averci raccontato ancora da vicino le vostre nuove uscite all'interno del catalogo di Mesogea Edizioni. Grazie ancora. Grazie a voi per l'attenzione, buon lavoro. Mi ricordo di te, andavamo a catechismo all'ospedale. Io pensavo solamente che alla fine mi facevano i regali. Fontanella di scintille, tu crescevi ed io restavo sempre uguale, e nei corridoi giganti della scuola non ci incontreremo mai. E non ti immagini quanto mi piace che parli poco e sempre a bassa voce, e che ogni cosa sembra esilarante. Che fai la scema e pensi di nascosto che è troppo stretto per te questo posto, che è tanto bello ma non può capire, non sa vedere. Andiamo a mare, faccio schifo a parlare, vorrei seguirti senza rovinarti il brutto. bruciare, fumare, spaccare con te. Sto lontano a guardare che mi facevi accollare la Bibbia, la scuola e adesso questo bar. Sei partita per la guerra, quando è bello prendi il sole dal balcone. Ho gli ingressi del concerto, ma alla fine non ci incontreremo mai. Sputa fumo dal cappello, quando ride sono colpi di cannone. Nella testa e nella pancia di chi è intorno, domani torpi e gli animali. Faccio schifo a ballare, seguirti senza rovinarti, bruciare, fumare, spaccare con te. Sto lontano a guardare che mi facevi accollare la chiesa, la scuola e adesso questo bar. Fammi imparare a ballare, lo so che è sempre impedito. Stacco e prendiamo un panino, na, na, na, na. Salite da me, fumiamo sulla terrazza, i torpi coi motorini in piazza, na, na. Tra un po' non ti vorrò più, tu non ti prendere a male, ho bisogno di qualche secondo. Ore 12:53, torniamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Minerva, il format di approfondimenti culturali, in regia e alla voce io, Rachele Copparoni. Abbiamo invece sentito tutti e tutte di nuovo Marco Castello, cantautore e polistrumentista siracusano, nuovo talento della 42 Records, per questo viaggio fatto all'interno dei panorami dei luoghi siciliani tra musica e case editrici. Questa canzone di Marco Castello si intitola Torpi, Torpi, non so se la O sia aperta o chiusa. Siracusani all'ascolto, ditemelo pure al 333-180-9494. E mi sono fatta spiegare ieri proprio dal mio coinquilino siracusano Doc il significato di questa parola, perché è in dialetto e tradotto, diciamo così, dal dialetto siracusano all'italiano vuol dire tamarri, zarri, insomma, ed è una parola che si usa proprio solo a Siracusa, quindi mi serviva la traduzione diretta del mio coinquilino Edoardo per poterla capire. Ma prima di passare negli ultimi minuti finali di Minerva alla nostra agenda degli appuntamenti, io devo chiedere perdono, umilmente perdono, a Caterina Pastura, che io per praticamente quasi tutta la puntata l'ho chiamata Claudia. Non so come mi sia venuto fuori questo nome, scusami Caterina, veramente mi sono confusa, chiedo perdono qua in diretta live, a volte insomma gli errori possono succedere, ecco. E ora, detto tutto ciò, possiamo finalmente passare alla nostra agenda degli appuntamenti. E partiamo ad un evento che si terrà su Facebook, ovviamente oggi alle 18.30. Calamaro Edizioni, in collaborazione con Sound Labs APS, presenta una serie di incontri dedicati alla pubblicazione proprio di questa casa editrice. Il primo incontro si terrà con Paolo Spillaman Ferrandi, giornalista, spillettaro, musicista e ora anche scrittore, che ha scelto di tornare alla terra e oggi vive in Appennino con la famiglia, ma sempre con un piede rivolto, diciamo, verso Bologna. Infatti presenterà il suo libro Bologna continua, dall'XM all'Appennino, con prefazione di Wolf Bukowski. E passiamo ad un altro evento che secondo me sarà molto atteso, perché vede protagonisti due grandissimi intellettuali, storici, ormai volti della storia della nostra televisione italiana. Sto parlando di Alessandro Barbero e Corrado Augias, che inaugurano la rassegna Il volto delle parole, con un omaggio a Dante. Incontri a tu per tu con l'autore per andare oltre la parola scritta e conoscere lo straordinario lavoro che si cela dietro alla composizione di opere di successo. Dove si può guardare la diretta, che sarà ovviamente in streaming? Allora, si può guardare sia su Facebook, sulla pagina Facebook di Cubo Unipol, il tutto alle 18.30, oppure sul canale YouTube sempre di Cubo Unipol, o anche sulla piattaforma di Cubo, quindi sul loro sito Cubo Unipol, Il volto delle parole. Quindi varie piattaforme in cui seguire questo fantastico incontro tra questi due personaggi, questi due grandi storici, che sono Alessandro Barbero e Corrado Augias. E passiamo ad un altro appuntamento, sempre sulla pagina Facebook, però questa volta di passionaria.it. Alle 18.30 torna l'appuntamento con Passion on Air, i dibattiti transfemministi live. Questa volta si parlerà di mestruazioni, tra tabù, stereotipi, discriminazioni e lotte. Se ne parlerà con Roberta Marasco, scrittrice femminista, autrice del romanzo Fazzoletti Rossi, Elia Bonci, transattivista, Vania attivista per la lotta all'endometriosi, Chiara Capraro, promotrice della prima raccolta firma per abbassare l'IVA sugli assorbenti in Italia, che tra l'altro racconterà anche del dibattito che c'è stato in Gran Bretagna, dove la tampon tax è stata appunto da poco abolita, quindi anche questo argomento molto molto interessante. Saranno anche presenti Chiara ed Elena della colonna solidale autogestita di Bologna e anche Benedetta Pintus, giornalista e fondatrice appunto di passionaria.it. E concludiamo alle ore 19 con una Facebook Live per il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, del PC. Si presenteranno le sorprendenti e inedite immagini filmiche dell'archivio sulla mostra del trentennale del PC, che si tenne a Bologna a Palazzo Renzo nei primi anni 50. Dalla pellicola restaurata vedremo anche l'edizione a cura di Home Movies, accompagnata da una sonorizzazione originale dal vivo di Guglielmo Pagnozzi, con un contributo del cantautore Pierpaolo Capovilla. Quindi anche questo veramente un evento molto importante per celebrare appunto la fondazione del Partito Comunista Italiano. E questo era tutto per oggi, mercoledì 20 gennaio, sono le 12.58, quindi è arrivato il momento dei saluti finali, anche il momento di ascoltare il fantastico jingle di Willy, che mi ha gentilmente omaggiato. Noi ovviamente ci sentiamo domani, sempre da mezzogiorno e mezza fino alle 13, con nuovi approfondimenti culturali. Buona giornata e buon pranzo, a risentirci domani. Il ritorno di Minerva con Rachele Copparoni, una cultura che è sempre titolare e mai di serve.